per lo studio della lingua. Tutto quel che virtuosamente s'adopera per lo comun beneficio e a favore di cose gradite dal mondo e tenute in pregio, suole arrecar sempre, a quei che l'on prendono, pubblica lode e universal gratitudine, le quali cose, di qualunque eccellente operazione e più degna, debbon riputarsi pienissima ricompensa. Quindi è che, vedendo noi per manifesti argomenti salire ogni giorno in più stima la nostra lingua, e col numero degli studiosi di quella, sì dentro come fuori d'Italia, crescere insieme la vaghezza di conoscer le sue bellezze, giudicammo non dovere essere senza lode né senza grado la fatica e lo studio che a pro di quella fosse impiegato. Dal primo vocabolario degli accademici della Crusca.